Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buona domenica da Stefano Gallarini. Il riposo del guerriero ancora in versione estiva, visto che siamo ai primissimi di settembre e per molti le vacanze non sono ancora finite. Qualcuno magari entrerà domani a riprendere l'attività quotidiana, altri invece la devono cercare, devono buttarsi nel mondo del lavoro, sperando di trovarlo. Di questo parleremo proprio nella puntata di oggi. Cercheremo anche di capire quali sono i film che vedremo prossimamente, i libri che leggeremo e anche la moda che vestiremo. Questo e altro nel riposo del guerriero. Alberto Fortis con settembre, perché ormai questa è la prima puntata di settembre del riposo del guerriero, sempre comunque in versione estiva, e oggi l'argomento è il ritorno dalle vacanze. C'è sempre Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire, ad aprire così il programma. Bentornato Antonio. Grazie a voi di avermi rinvitato. Questo tuo agosto andiamo. Milanese. Ecco. Il mio agosto milanese è stato molto proficuo. Adesso, come diceva D'Annunzio, settembre andiamo, il tempo di emigrare. No, scherzo. Si ritorna, ahimè, alle sudate carte, e si ritorna anche, per fortuna, a vestirsi un po' meglio. Ecco, si ritorna a vestirsi un po' meglio. Allora, ecco, facciamo questi, prima della viabilità, abbiamo qualche minuto, che cos'è che tu ti auguri da questo punto di vista? No, non mi auguro nulla, non ho questo tipo di arroganza. Io quello che o mi cosa auguro... vorresti vedere, ecco, diciamo così. Ecco, allora, visto che oggi c'è una parola che viene usata moltissimo, no? Viene usata in maniera anche talvolta a sproposito, che è consapevolezza. Sono tutti molto consapevoli che sì, il pianeta va a rotoli, che c'è global warming, che siamo in recessione. Ecco, allora uno o una dovrebbe anche essere consapevole di ciò che è e di come si presenta al mondo, per cui mi auguro semplicemente questo, cioè che ci sia una maggiore consapevolezza, appunto, come avevo scritto in un libro, non di quello che noi possiamo fare per la moda, ma di quello che la moda può fare per noi, sconoscendo però il nostro corpo, i nostri limiti e anche il mondo in cui dobbiamo stare, dobbiamo tornare, e a me dopo le vacanze a fare i conti, insomma, con cui dobbiamo patteggiare bene o male la nostra quotidianità. Da questo punto di vista l'Italia ha ancora lo scettro? Per fortuna sì, sicuramente, come dire, uno scettro, un trono forse non più rifulgente, non sto dicendo vacillante, ecco, non più luccicante come poteva essere negli anni 80 e 90, perché abbiamo la grande fortuna di avere delle grandissime aziende che producono, forse non tutti lo sanno, ma il 90% dei vestiti, anche e soprattutto dei stilisti stranieri, con questo intendo stilisti anche americani, stilisti francesi, stilisti inglesi, sono prodotti in Italia, e questo ci permette poi di avere una base, direi, piuttosto solida. Forse quello che, se mi è permesso fare una piccola critica, non so Stefano se me lo lasci fare, quello che ci manca è un po' più di voglia di azzardare. Tutto sommato abbiamo, come dire, io viaggio per lavoro, viaggio spesso per lavoro, e non so, quest'anno ero andato in Brasile, poi a Singapore a vedere la Fashion Week, adesso andrò a quella di Tel Aviv. E ovunque si vada, ancora resiste nella nostra grande, come dire, buona stella, il mito dell'italianità come sinonimo di buon gusto, di qualità, di cose non tanto di lusso quanto veramente fatte con molta cura. Allora, a questo punto, voglio dire, non soltanto cerchiamo di esserne fieri e orgogliosi, ma aggiungiamoci magari anche un po' di creatività in più, no? Tutto sommato, visto che tutti ci riconoscono una bravura di tipo tecnico, forse è arrivato il momento di ritornare a 25-30 anni fa, quando c'erano dei signori che si chiamavano Versace, Ferré, Valentino, e che proponevano una loro visione del mondo che in questo momento in Italia mi sembra un pochino appiattita. Per cui siamo bravi nel fare le cose, cerchiamo di essere bravi anche nel sognarle. Ecco, bene Antonio, speriamo che sia veramente così. Gli aggiornamenti sul traffico e poi con Antonio Mancinelli vedremo quali sono gli appuntamenti che ci aspettano e che riguardano la moda in tutto il mondo. Sono tantissimi, molti anche sconosciuti a noi, ma a voi no, ovviamente, nel settore. Dopo appunto gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. E ritorno dalle vacanze insieme in questo momento a Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire e scrittore, vi ricordo, finalmente Libere, edito da Sperling, il racconto di 60 donne che hanno superato i 45 anni, giusto? Giustissimo, bravissimo. Allora, non quando è che parenti. Scriverai finalmente Liberi? Siamo in trattativa. No, scherzo. Non so se gli uomini mi darebbero la stessa soddisfazione che mi hanno dato le donne, quindi ci sto pensando seriamente. E ci sono le pari opportunità, anche al contrario. Sono le pari opportunità, però gli uomini forse sono meno interessanti, no, sono più noiosi. Non oserei dire questo, però sono più restii forse a raccontare i fatti loro delle signore, che invece devo dire nel libro si sono molto, si divertono di più, si sono messe in discussione anche raccontando storie intime. È anche quello un sinonimo di intelligenza, per quanto riguarda le donne, ovviamente. Allora, vediamo appunto, siccome parliamo del ritorno dalle vacanze, quello che ci aspetta voi operatori del settore. Ti piace questo termine? È spaventoso, sembra quasi operatori ecologici. Però sì, no, ci sono tanti appuntamenti che noi non conosciamo affatto. Adesso, a parte le grandi sfilate di Milano, di Parigi, le conosciamo tutti, le vediamo altre giornate. Sì, anche perché poi, come dire, in ordine di apparizione c'è New York, che ormai è diventata la capitale internazionale di quello che Gallerini definirebbe casual, cioè di questo di questa moda un come pochino... si chiama invece, visto che non posso usare casual, che anni sporty. 70 adesso come... va molto di moda sporty, che è sportivo, sì, ma anche troppo. Classy, cioè... quindi quella roba lì un po' tra lo sportivo e l'elegante, sì. Poi c'è ovviamente Milano, scusate, poi Parigi, c'è Londra, Londra poi okay, c'è Londra, scusami. Che appunto, come abbiamo detto nelle scorse puntate, è sempre molto interessante andare a vedere, poi c'è Milano e si finisce con Parigi, che devo dire, ecco, insomma, continua sempre a voler essere la prima della classe, quindi l'ultima in ordine di apparizione. Ah, perché la star esce sempre alla fine. Perché ovviamente la star esce sempre alla fine, ci sono state anche varie, come dire, varie lotte interne. Detto questo, come diceva giustamente Stefano, poi non soltanto per noi del settore, ma alcune fiere sono anche aperte al pubblico, ci sono molti appuntamenti interessanti, soprattutto a settembre, per cui penso ai vari MICAM, per esempio qui a Milano, che per quello delle calzature, c'è il MICAM e il MIPEL per quello che riguarda le calzature, le pelletterie, c'è il MIDO che è quello che riguarda gli occhiali, che è un mercato importantissimo per l'economia italiana, sì, perché siamo tra i migliori al mondo sia per quello che riguarda la produciamo fattura per tutti, delle lenti, produciamo per sì, tutti, per tutti gli stilisti. E un'altra cosa che invece a me piacerebbe molto sottolineare è come la moda in questi ultimi anni stia contenendo sempre di più un messaggio politico, di visibilità, politico in senso ampio, di visibilità al mondo. E appunto, come avevo detto prima, ero stato, io spero decisamente di tornarci, in Brasile a vedere la San Paolo e la Rio Fashion Week, ma il fatto che 2 anni fa, pensa, un ex fotomodello che lavorava per Armani, che sfilava per Armani, ha deciso di aprire ed inaugurare questa Fashion Week israeliana, dove andrò a fine mese, e che si svolge a Tel Aviv, e il fatto che comunque ormai ogni paese, penso alla Mumbai Fashion Week, adesso c'è addirittura, e noi andremo, ci andrà la mia collega, una Lagos Fashion Week in Nigeria, serve tutto sommato non solo a rendere attraente, no, un certo tipo di situazione sociale, culturale, economica di un paese, e quindi ad attirare l'attenzione da parte dei giornalisti, ma in cui la moda fa parte integrante comunque di una cultura che serve anche a esportare così la fama o comunque l'interesse verso un paese. Quindi in questo momento direi che il fatto che in tanti paesi ci siano le settimane della moda, c'è anche la Berlino Fashion Week, quindi anche in città. C'è a Barcellona, non so se è molto divertente, c'è questa grande fiera di accessori, si chiama Bread and Butter. Quindi ogni città ormai si sta organizzando la sua settimana della moda, proprio perché in qualche modo vivendo in un mondo sempre più, come direbbe Gallarini, global, no? Che è globale da un lato e locale dall'altro, in qualche modo la moda rappresenta una carta d'identità di un determinato paese e talvolta, come nel caso appunto di Tel Aviv, ma anche come era stato quando sono andato a Singapore, dove c'erano stilisti cinesi, indiani, malesi e così via, diventa anche una maniera garbata, divertente, elegante, perché no, di mettere sul tavolo temi anche scottanti. Cioè per esempio, in questa settimana della moda in Israele forse ci saranno due stilisti arabi, due stilisti palestinesi, quindi perché no? Perché non usare la moda anche come, così come Grimaldello, come cavalluccio di Troia, per introdurre degli elementi. Anche perché è qualcosa che arriva a tutti, cioè tutti ci vestiamo e quindi per forza di cose tutti possiamo essere interessati e quindi avvicinarci. Sì, comunque, e poi parliamoci chiaramente, come abbiamo detto più volte, vivendo sicuramente in un tipo di pianeta come dominato dalle immagini, il fatto che ci siano delle immagini sicuramente belle, sicuramente di grande appeal, può servire appunto come grimaldello per introdurre dei temi più importanti, più seri, forse anche più gravi per il benessere di tutti, come un altro grande appuntamento. Questo mi piace ricordarlo proprio per una questione personale, questa Ethical Fashion Week che c'è a Londra subito dopo le sfilate, che fra l'altro è diretto da un'italiana che si chiama Ursula De Castro, dove vengono presentati linee che sono non solo ecologicamente corrette, ma in cui addirittura tutta quella che noi chiamiamo filiera, no? Sì. Cioè da chi lo produce a chi lo distribuisce viene controllato, per cui non solo magari c'è il vestitino fatto con, non so, le bottiglie d'acqua minerale che poi diventano tessuto, ma viene controllato anche che il lavoratore che l'ha fatto sia stato pagato regolarmente, non sia minorenne e così via. E quindi ecco degli elementi così importanti, tanto che appunto si chiama Ethical Fashion Week, è una moda etica ma anche estetica, ma anche sì, assolutamente estetica, perché comunque c'era stato anche un problema di comunicazione, no? Su questi temi che da un lato sono sicuramente importanti per tutti, ma talvolta erano anche un po' noiosi, e proprio Orsolo De Castro ha inventato questo salone in cui si parla di problemi come il global warming, si parla di problemi come la giustizia nei confronti dei lavoratori attraverso le sfilate, e devo dire che poi su tutto questo le sfilate sono anche molto belle. L'aspetto infatti è molto interessante. Viene voglia proprio anche di non hai citato comprarle. La Russia sì, poi cioè, i paesi dell'est anche, in questo momento hanno qualcuno alla la loro Fashion Week, però mentre si sta organizzando molto bene la Cina, infatti poi sarei arrivato in Cina, La Cina è veramente pericolosa in senso buono, ovviamente, perché comunque insomma sta diventando un competitor non solo per quello che riguarda, scusate uso questa parola un pochino così un po' brutale, i tarocchi, ma ormai sono talmente le copie, le contraffazioni, sì, esatto. Ma sta diventando invece un produttore estremamente interessante, quindi cose originali, okay, sta sì, creando, sono usciti già 2 o 3 stilisti ahimè molto bravi, dico ahimè per noi. La Russia in questo momento sta vivendo, la Russia, cioè l'ex Unione Sovietica, sì, sia ben chiaro, sta vivendo un momento, come dire, di grande ebbrezza dovuta a un afflusso di denaro consistente, sì, per cui in questo momento sono ancora, diciamo, dei grandissimi clienti. E ci va bene. E ci va bene. Poi ci sono 2 o 3 stilisti russi, però, che sfilano a Parigi. Sì. E quindi per ora ci va bene così. Credo molto invece, l'avevo detto prima, che il nuovo arriverà dall'India, ma anche dall'India. Scusate, dalla Cina, ma anche dall'India. Perché appunto dalle sfilate che abbiamo visto, che siano sia Nuova Delhi che, anzi a New Delhi, che a Mumbai emerge una realtà dove c'è un artigianato meraviglioso, dove iniziano ad esserci dei talenti nuovi molto interessanti, e quindi l'unione di dei giovani molto originali con una tradizione manuale molto forte sicuramente darà dei frutti molto interessanti. È interessante perché, se ci pensi, poi sono i mercati, no, più importanti, sì, emergenti, cioè la Cina, l'India e il Brasile fondamentalmente, esatto, e quindi la moda proprio, proprio vicina ai mercati in questo senso anche, ne segue, no? Certo, il famoso BRIC, anzi BRICS, adesso si è aggiunto anche il Sudafrica a questi mercati, e sono tutti mercati che sono estremamente interessanti proprio perché da un lato, per fortuna, amano ancora molto la moda europea, dall'altro, essendo intelligenti, imparano molto velocemente. E quando sono stato per esempio in Brasile, sicuramente 3 o 4 stilisti, di cui già 2 sfilano a Parigi, sono già, come dire, a dei livelli tali per cui potrebbero vendere benissimo in una delle vie del lusso italiane o europee. Ecco, per chiudere, Antonio, il punto d'arrivo Milano-Parigi per sfilare? Come stilista, il punto d'arrivo secondo me in realtà è il web, nel senso che il mondo di oggi è veramente, come diceva Marshall McLuhan, che è stato un grandissimo sociologo, sempre di più un villaggio globale, quindi il luogo dove si sfila non è più neanche così importante. Pensate che ormai è possibile vedere a tutti, no? Da un lato c'è questa concezione della sfilata come rituale, l'evento, riservato, no? Sì, un evento riservato a pochissimi, dall'altro poi ormai tutti i grandi brand fanno la sfilata in streaming, e quindi secondo me veramente ormai per chi volesse intraprendere questo tipo di carriera non sarà tanto dove sfilare, ma arrivare a rendersi visibile, quindi è purtroppo arrivare nel sito famoso di moda, nel sito online della grande rivista di moda, e fare in modo che, come dire, questa sfilata si sia vista da tutti. Quindi io vorrei che questo venisse interpretato, stiamo diventando serissimi, sì, in galleria, venisse interpretato anche come una sorta, no, di abbattimento di qualsiasi frontiera geografica, dove alla fine poi quello che vince veramente è avere nuove idee. C'è questo sì, questo lo posso dire molto serenamente, c'è proprio in tempi di crisi vincerà chi avrà le nuove idee, e forse la vera ricchezza non è soltanto avere dei soldi o del denaro, ma avere nuove formule per la vita quotidiana, insomma. Quindi vincerà chi avrà delle nuove idee, e in questo momento anche la moda ha bisogno di nuove idee che arriveranno, credo, da qualunque tutte parte del mondo, ovviamente. Africa non esclusa, anzi, mi aspetto moltissimo dall'Africa. Grazie Antonio Mancinelli e ci sentiamo presto. Grazie a voi. Il riposo del guerriero. Ormai a settembre si riprende, ritorno dalle vacanze, questo è il tema della puntata di oggi del riposo del guerriero, e non è ancora andata in vacanza, più o meno, insomma, no. Alessandra Tedesco che ci andrà. E a ottobre, perché sappiamo che settembre è la stagione dei festival letterari, io devo lavorare, quindi ragazzi a ottobre vi prego fatemi andare in vacanza. Non ti fermi mai, allora cerchiamo di non fermarci neanche noi, nel senso che appunto questo ritorno dalle vacanze è contraddistinto anche da vari festival letterari che adesso Alessandra ci illustrerà. Beh, innanzitutto il Festival Letteratura di Mantova, che il festival lo considerano un po' il padre di tutti i festival, perché è il festival letterario sicuramente di riferimento, non dico che sia quello più vecchio, però insomma sicuramente quello più importante. Si terrà appunto a Mantova dal 5 al 9 settembre. Il Festival di Mantova è molto bello perché ha una dimensione quasi familiare, però ha dei numeri importanti assolutamente, sia a livello di presenza di autori che a livello di pubblico. La cosa bella è che esiste appunto questo comitato organizzatore che durante tutto l'anno decide su quali libri o scrittori puntare, indipendentemente dal fatto che vendano, siano famosi o non siano famosi. Anzi, loro vanno alla ricerca, proprio come è l'idea del festival, sì, cioè quella di proporti delle cose, non di fare una vetrina di personaggi famosi. Non serve, quella la vediamo già. Quella la vediamo già nelle librerie. Sì. Loro ti cercano, fanno le loro proposte. E quindi a Mantova c'è un pubblico molto fidelizzato che va e si fida delle proposte del comitato organizzatore, si affida in qualche modo, ed è un pubblico disposto a pagare un biglietto, seppure basso, di pochi euro per assistere agli incontri. Quindi il pubblico è realmente interessato, non va lì perché è stanco, si siede e mangia un panino, è un pubblico realmente interessato che paga un piccolo biglietto, fa anche una piccola coda per entrare, perché fra un incontro e l'altro insomma ci vuole quel tempo fisico, sì. E quindi un pubblico anche molto preparato, quindi quando si va lì a Mantova, insomma, bisogna essere preparati anche come presentatori degli scrittori. In una cornice come quella mantovana, che bellissima. Tra l'altro quest'anno ci sono stati danni, c'è stato qualche danno per il terremoto, sì. Quindi probabilmente la sede di alcuni incontri sarà spostata rispetto agli anni passati, perché ovviamente hanno fatto una verifica sull'agibilità di tutti questi cortili, chiostri e sì. Cose antiche. Quest'anno, come dicevo, non è che a Mantova ci sono i nomi grossi, ci sono delle proposte, ci sono anche però i nomi famosi. Per esempio c'è il premio Nobel Toni Morrison, che come scrittrice è una scrittrice afroamericana, magari è poco conosciuta come Nobel, ci ricordiamo magari altri Nobel, di lei non ci ricordiamo, e c'è proprio una retrospettiva dedicata a lei, quindi ci sono vari incontri che saranno dedicati appunto a Toni Morrison, che sarà anche fisicamente presente. Ecco, c'è una linea, un argomento, un tema, no. Oppure allora, no? Allora, a Mantova non c'è un tema, scelgono dei temi loro da seguire, e ci sono vari incontri con l'autore, poi ci sono varie iniziative, non so, c'è la lettura dei giornali con uno scrittore famoso, insomma più o meno famoso, oppure per esempio quest'anno un gruppo di giallisti è stato chiamato a raccontare qual è stato il giallista che li ha maggiormente influenzati nella loro opera, chi gli ha fatto nascere insomma l'idea. Ci sono, insomma, magari non è la semplice presentazione, può essere un dibattito, può essere una cosa con due scrittori o degli intellettuali o un filosofo, così, ma veramente ci sono tantissime proposte. Io per esempio, fra gli altri scrittori, a proposito dei giallisti che racconteranno diciamo la loro ispirazione, Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli e Marco Malvaldi, diciamo fra i nuaristi e i giallisti ironici. E poi ci saranno, non so, Michela Murgia, per esempio, fra gli stranieri l'argentina Claudia Pignero, e poi ci sono gli svedesi Lars Kepler, questi che si firmano con questo diciamo pseudonimo e sono dei giallisti, avevano scritto L'ipnotista qualche anno fa per Longanesi, se non erro. E ovviamente ci si può già prenotare per Mantova, gli alberghi, cercate di fare il possibile, perché purtroppo Mantova ha questo problema. Ha un bellissimo festival, ma gli alberghi della città sono spesso piccoli e fatiscenti, quindi bisogna andare un po' fuori città per trovare... Ci sono tantissimi posti fuori. Per trovare posto, e se volete prenotarvi, insomma, per vedere tutto quanto, il sito è www.festivalletteratura.it. Ecco, gli ospiti stranieri hanno traduzione, ovviamente. Sì, sempre la traduzione, ovviamente. Ecco, fra gli ospiti mi piace ricordare, lo so, qua c'è proprio un conflitto di interessi enorme, Fulvio Erbas, perché lo presenterò io, ovviamente questo è il conflitto di interessi, sabato sera alle 21, Fulvio Erbas è stato un po' il caso editoriale di quest'anno, e questo scrittore trevigiano che ha scritto Se ti abbraccio non avere paura, la storia vera di suo figlio. Non suo figlio, è un signore che lui non conosceva, che ha incontrato in un bar, che ha un figlio autistico di 18 anni, l'ha preso, l'ha portato nel sud dell'America, negli Stati Uniti, gli ha fatto fare un viaggio con lui in moto, ed è una cosa abbastanza originale, perché gli autistici in genere sono persone molto abitudinarie, che non devono, insomma, i medici avevano sconsigliato di fare questo viaggio, invece ha fatto un'esperienza bellissima questo ragazzo, e il titolo viene dal fatto che questo ragazzo tende ad abbracciare le persone in maniera proprio un ragazzone alto, in maniera forte, e quindi quasi a stritolarle, e aveva, i genitori gli avevano fatto queste magliette dove c'era scritto Se ti abbraccio non avere paura. E l'ha raccontato Fulvio Erbas con grande serenità e ironia, come anche il papà del ragazzo è. Infatti non avrei mai accettato questa presentazione, non avrei mai parlato del libro se fosse stato un libro smieloso, di quelli tragici sulle malattie, perché io credo che si debba parlare di disabilità nel modo più normale possibile e nel modo anche più ironico possibile. Bene, allora questo per quanto riguarda il Festival di Mantova, poi ne abbiamo tanti altri e a settembre. E poi, dopo due settimane ci andiamo in Friuli Venezia Giulia a Pordenone Legge dal 19 al 23 settembre. È la 13ª edizione di un festival che magari è poco conosciuto, però piano piano si sta affermando. Pensate che quest'anno hanno proprio scelto il grande nome, insomma, per farsi anche giustamente un po' pubblicità, sì. E hanno l'inglese Ian McEwan, quello famoso che aveva scritto Espiazione, dal quale era stato tratto anche un film di medio successo, era stato più famoso sicuramente il libro. E poi ci sarà Niccolò Ammaniti, che è un altro, insomma, grande scrittore, che parlerà del suo ultimo libro. Walter Siti, che ha scritto un libro da tenere assolutamente d'occhio per la prossima stagione letteraria. Sono sicura che in qualche premio della prossima stagione arriverà un libro Rizzoli, Resistere non serve a niente. Poi Gianrico Carofiglio, Giorgio Faletti, Mauro Corona. Fra gli stranieri invece c'è Peter Cameron, che io amo molto. Era quello che aveva scritto Il Lago Dorato, La Sera Dorata, non ricordo adesso in questo momento. Poi Questo dolore ti sarà utile, è pubblicato da Adelphi. Poi Jonathan Coe, altro scrittore britannico, non so, ti cito La Banda dei Brocchi, Casa Winslow, insomma, sempre British, sempre aspramente critico sulla società britannica anni 80. E poi Aaron Appelfeld, uno scrittore di cui ho un ricordo meraviglioso. Lui, non so se abbiamo tempo, un minuto per raccontare la sua storia. Aaron Appelfeld, ebreo, scappò da un campo di concentramento in Germania e vagò da solo in Ucraina non so per quanto tempo. Da bambino aveva 8-9 anni, 10 anni. A un certo punto, in un libro racconta questa scena, vede un albero pieno di mele ed è così emozionato dall'idea del cibo, perché non mangia da giorni, che non ce la fa, non riesce a mangiare, si addormenta ai piedi di quest'albero e solo il giorno dopo riesce a mangiare questa mela. Appelfeld è un anziano signore, se lo guardi negli occhi capisci tutta la sua vita. Io quando l'ho visto, l'ho abbracciato e mi sono messa a piangere, non ve lo nascondo, perché leggendo i suoi libri, lui non parla mai della Shoah, degli orrori della Shoah, perché giustamente dice non sono raccontabili, però racconta delle cose di contorno che ti fanno percepire in una maniera tutto il resto. Esca l'orrore della Shoah, e io quando l'ho visto veramente mi sono commossa, e lui mi ha abbracciato, era lui che diceva a me tranquilla, così cola. E, una grandissima persona Aaron Appelfeld, grandissimo. Questo per il Festival di Pordenone. Pordenone Legge, così si chiama. Sì, Pordenone Legge. E poi insomma andiamo un po' più sull'allegria dopo questa parentesi su Appelfeld, il Women's Fiction Festival a Matera dal 27 al 30 settembre. Allora tu dici un festival per sole donne, sì, ma accettiamo anche gli uomini, diciamo così. È un festival dedicato soprattutto alla letteratura femminile, ma la cosa bella di questo festival è che propone la borsa del libro, cioè se tu hai un libro nel cassetto, sì, che cosa fai? Ti iscrivi al Women's Fiction Festival, trovi tutto sul sito womensfictionfestival.com. Si pagano, non mi ricordo adesso, credo 200 euro o qualcosa del genere, e puoi partecipare per 4 giorni a seminari, incontri con gli scrittori per capire come si scrive di qua e di là. Ma la cosa più importante è che avrai la possibilità di incontrare vis-à-vis o un editor oppure un agente letterario a cui mostrare alcuni tuoi lavori, sì, e da qui magari può nascere un contratto editoriale. Per esempio, chi è che è venuto fuori dal Women's Fiction Festival, per fare proprio degli esempi concreti? Sì. Giuseppina Torregrossa, che adesso pubblica con Mondadori, è quell'autrice che ha pubblicato prima L'Assaggiatrice, poi Miele, Manna e Ferro, una cosa del genere, e adesso ha un altro libro sempre legato alla sensualità e il cibo, ed è un'autrice Mondadori, quindi direi di ha trovato un ottimo contratto. E perché proprio lì a Matera incontrò un editor della Mondadori, insomma. Uno riesce a proporre qualcosa di interessante, le possibilità ci sono. E la stessa cosa era successa a Gabriella Genisi, di cui vi avevo parlato qualche puntata fa a proposito del Giallo Rosa, ora pubblicata da Sonzogno, ha già pubblicato 3 libri da Sonzogno, e lei aveva appunto incontrato al Women's Fiction Festival di Matera, non mi ricordo se un agente letterario, direttamente l'editor, a cui era piaciuto, tac, pubblicazione, contratto, libri. Quindi chi ha un libro nel cassetto, anche se siete uomini, cioè, in questo senso diciamo, si chiama Women's Fiction Festival, però è aperto chiaramente anche, anche agli uomini. Semmai si trova un agente letterario donna, voglio dire. Ecco. Sì, sì, ma insomma sì. Adesso le cose di genere non bisogna ghettizzarsi, insomma. Siamo a Matera, giusto? Questo. Siamo a Matera, che tra l'altro è una bellissima città, sono dei posti dove si mangia veramente benissimo e uno passa questi 3-4 giorni. Sono stata qualche anno fa a Matera col Women's Fiction Festival, mi sono divertita moltissimo e devo dire che c'è una cornice anche particolare. Poi i festival letterari al sud non sono molto diffusi, c'è quello di Polignano, Il Libro Possibile, che è a metà luglio, però ce n'è un altro a Trani, però sulla saggistica, insomma sono più noti quelli del nord, quindi mi fa piacere dare voce a un festival del sud. Grazie Alessandra Tedesco, insomma chi frequenterà poi i vari festival la incontrerà, la riconoscerete perché lei abbraccia in generale anche lei. come il libro di Erba. Esatto. No, ho sempre un microfono Radio 24, quindi così lo la sapete potete riconoscere. Perché mi vedete in giro. Grazie Alessandra Tedesco. Grazie a te. Il riposo del guerriero. L'appuntamento estivo del riposo del guerriero, le parole che accompagnano la nostra estate, e purtroppo c'è anche un'altra parola che è il ritorno dalle vacanze, insomma arrivo a settembre significa ritornare nella quotidianità per la maggior parte di noi. Marta Cagnola, ciao. Buongiorno a tutti, però il ritorno è anche bello perché sì. Si ritorna con un po' di energia, un po' di perché è sempre buoni propositi. A parte le mazzate che arrivano immancabilmente, ma se non pensi a quelle sì, c'è la voglia di ricominciare, chissà tutto nuovo, tutto bello. Anche no? Perché tutti si dice sempre che si facciano i buoni propositi il primo sì. di gennaio, io li faccio il 15 di settembre. No, si fanno anche prima dell'estate, no? I nuovi propositi di polla, lo sport e la dieta, esatto. Ma quello è inevitabile. C'è sempre un momento per fare i buoni propositi, poi però si devo perde. Dire che io il 15 di settembre lo trovo sempre, manca ancora qualche giorno, quindi sono ancora così nel limbo. Il 15 settembre per me è il giorno in cui davvero si fanno i buoni propositi. Non te li successivo. Chiederò, ecco, ma vorrei sapere però cosa ci aspetta dal punto di vista del cinema, della televisione quest'autunno. Abbiamo un sacco di cose da vedere, io vi do subito un consiglio perché vi confesso che ho già avuto l'occasione di guardare un po' di puntate di questa serie televisiva, già qualche settimana fa avevamo parlato della mia malattia per le serie TV, questa è davvero bella, infatti io spero che arrivi il prima possibile in Italia, si chiama The Newsroom. Allora, c'è un'idea comune che è quella secondo cui in televisione funzionino i medici, gli avvocati, sì. Ma non funzionano mai i giornalisti. A parte Lou Grant e pochi altri, è difficile trovare dei giornalisti che abbiano fatto davvero appassionare le folle. Questa volta tutto diverso, arriva questa serie televisiva creata da Aaron Sorkin, che è un grande maestro delle serie TV e anche un maestro del cinema. Che dire... appassionante, cioè questo giornalista di mezza età che è andato incontro a tanti guai nella sua vita, perché insomma l'eroe non può mai essere senza macchia, ma senza paura sì, e che dal nulla riesce a fare degli scoop straordinari, riesce a mettere insieme una squadra di giornalisti appassionati e ti assicuro non è empatia e immedesimazione, è veramente ben è fatta questa serie televisiva. Ecco, ogni puntata si conclude la storia oppure devi continuare? Ci sono delle evoluzioni, però per ogni puntata ha un suo svolgimento, no? È davvero molto bella The Newsroom, spero che arrivi presto, ma sicuramente arriverà presto in Italia. Un'altra serie che arriverà sicuramente nelle prossime settimane su Fox è invece Scandal, anche questa è ambientata negli Stati Uniti, anche qui ho visto delle anticipazioni, qui l'eroina è una donna, Olivia Pope. Ma sempre giornalista? Lei è avvocato e si preoccupa però... non di insabbiare, non di risolvere casi, ma fare in modo che gli scandali non emergano. Esatto. Così. Ah, ho capito. Esatto, e quindi a volte agisce per il bene, a volte non è proprio per il benissimo e ha una strana relazione col presidente degli Stati Uniti, perché lei è un'ex collaboratrice del presidente degli Stati Uniti, quindi qualcosa di molto curioso, ma non vi svelo troppo. E quindi questo per quanto riguarda la televisione. Per quanto riguarda la televisione poi ci sono anche dei grandi eventi ai quali ci stiamo stiamo preparando, ne avevamo già parlato, i concerti di Adriano Celentano, sono molto curioso dal punto di vista televisivo a vedere quanti ascolti faranno e se avranno qualche influenza poi sugli equilibri Rai-Mediaset. Ogni anno cambia e anche quest'anno secondo me sarà diverso dall'anno precedente, perché ancora ci saranno degli equilibri da rivedere, da ritoccare anche con le reti tematiche, satellitari o del digitale terrestre. Chissà, il futuro è ancora tutto da prevedere. E poi ci sono i grandi concerti, il concerto per Luciano, per ricordare Luciano Pavarotti, e poi il 22 settembre il concerto Italia Loves Emilia, 14 grandissimi big che si sono incontrati, hanno deciso di fare questo grande concerto a Campovolo, le premesse ci sono tutti perché diventi un grandissimo evento, ma insomma staremo a vedere tutto questo insomma nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece la musica, sempre rimaniamo in ambito musicale, ma andiamo oltreoceano, mancano pochi giorni, 11 settembre, che è purtroppo un brutto anniversario, però l'11 settembre 2001 non solo caddero le Torri Gemelle, ma usciva un album, il 31esimo di Bob Dylan, e quest'anno l'11 settembre Bob Dylan fa uscire il 35esimo. Si intitolerà The Tempest, la tempesta, e qualcuno già dice che potrebbe riferirsi alla Tempesta di William Shakespeare, che fu l'opera che sancì il suo ritiro dalle scene, quindi immaginati tutte le speculazioni. Sì. Quindi lui, questo sarà l'ultimo album di Dylan, dopo di questo nessun altro. Vabbè, insomma tutto si svelerà la prossima lui settimana. Lui chiaramente non ha dichiarato assolutamente. Ma secondo me non dichiarerà mai nulla, sentiremo la prossima settimana cosa dice, ma insomma si sa che lui deve essere sempre un po' giustamente avvolto nel mistero, nella leggenda, una leggenda vivente, ma insomma qualcosa di qualche sorpresa ce la riserverà. 11 settembre quindi esce l'album di Bob Dylan. Passiamo al cinema. Al cinema, certo. Allora passiamo al cinema, facciamo uscire il fanciullino che è in noi. Molto volentieri, se poi con questa qualità, ecco, con dei film d'animazione veramente deliziosi, Brave e L'era glaciale 4. Ecco, prima di entrare nello specifico ti faccio una domanda così personale da un certo punto di vista. Tu trovi ancora giusto che l'animazione sia un premio separato negli Oscar, o ormai lo metteresti come miglior film in generale, che può essere d'animazione o meno, però cioè la polemica nacque con Wall-E. Ebbene, perché sì. Wall-E è un film con una sceneggiatura che vale un film. Secondo me esistono dei film d'animazione, però Wall-E non è un film d'animazione nel vero senso, nel vero senso della parola. Perché ormai l'animazione è talmente è aderente, attoriale, poi è talmente aderente al vero che è soprattutto per alcune categorie la sceneggiatura non è paragonabile a quello che era l'animazione a un tempo, però è un terreno molto delicato. Poi si sa che l'Academy è molto tradizionalista. Ma tu cosa faresti così istintivamente, così senza ragionare troppo, ma è proprio una domanda che ti faccio per confronto. Ma io abolirei la categoria dell'animazione, via. Cioè, miglior film e basta, perché poi sia d'animazione, così non c'è un documento, non ci interessa. È no, anche film, perché c'è uno sceneggiatore, c'è un regista. È tutto così. C'è costa tutto. Anche quanto un film. Anche spesso molto di più. Molto di più, perché prendere una splendida, non lo so, Julia Roberts con i suoi capelli ricci rossi e crearne facile. Una come Brave. Infatti, ci vogliono anni per i film d'animazione di questo genere, ci vogliono anni di preparazione e di lavorazione. Un film normale, invece, non ha mai bisogno di così tanto. Tempo, no? Non è paragonabile il tempo del make up di Julia Roberts e quello del make up della principessa ribelle, perché per creare Brave c'è veramente del rendering ormai digitale, appunto, che richiede molto tempo. Allora vediamo, L'era glaciale 4, cominciamo da lì. L'era glaciale 4, io mi sono divertita tantissimo perché ci sono dei personaggi davvero divertenti. Ti dico solo che Scrat riesce a scoprire Scratrantide e quando Scrat scopre Scratrantide è veramente l'apoteosi. C'è da dire che L'era glaciale 4, come sempre, ha tantissimi livelli di lettura, ci sono moltissimi riferimenti alla mitologia, i bambini ovviamente non li colgono, ma ridono come dei pazzi. Gli adulti dovrebbero, però è veramente simpatico, veramente divertente, davvero godibile, poi ormai è un classico. L'era glaciale 4 non si fermerà qua perché il finale è ovviamente aperto a un'era glaciale 5. Però devo dire che nonostante io non sia mai favorevole ai remake, ai sequel, questi sono una cosa un po' diversa. Perché funziona. Sì, insomma, alla fine non è tanto la trama. È un po' come guardare le comiche. Certo, fine. Peraltro c'è chi dice, ma nessuno lo sa ancora con certezza, che L'era glaciale 5 potrebbe essere centrata veramente su Scrat. Non saprei come, visto che Scrat in realtà non parla davvero, però potrebbe essere così, insomma, è tutto da scoprire. Vedremo, insomma, tra un paio d'anni probabilmente, perché l'abbiamo detto, realizzare questi film è difficile. Come è stato difficile realizzare Brave? Film come Brave ti fanno capire che l'animazione che vediamo oggi sarebbe stata impossibile solo 2 anni fa, 3 anni fa. I progressi della tecnica sono davvero incredibili. Alla Pixar infatti hanno rivoluzionato proprio il sistema di calcolo del rendering dei personaggi per poter rendere lei la protagonista, no? Che è incredibile. Io l'ho detto, la vendetta di tutte le donne con i capelli ricci come me, perché finalmente un'eroina con una massa straordinaria di capelli ricci, banalmente erano proprio impossibili da realizzare in animazione, e adesso sono veramente una cosa impressionante. Io ero ipnotizzata da questa capigliatura. Da non perdere il corto che anticipa il film. Io mi sono fatta un sacco di pianti, perché è commoventissimo. La Luna di Enrico Casarosa, che è appunto italiano, candidato all'Oscar, è veramente tenero, commovente, delicato, bello bello. Proprio i corti della Pixar sono sempre dei capolavori. Grazie Marta Cagnola. Il riposo del guerriero. Buona domenica ancora da Stefano Gallarini. Continua il riposo del guerriero, la versione estiva, in questo momento con la nostra glottologa Francesca Dragotto. Ciao Francesca. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Allora, la parola di oggi è una parola della quale che si usa costantemente durante questo periodo, ma che usiamo ormai anche in altri sensi. La parola esodo. Eh sì, tra i tormentoni dell'estate da cui siamo partiti ormai un mese fa, avremmo dovuto annoverare risparmio, che è ormai un termine più che un tormentone, ce lo sentiamo ripetere quotidianamente, e appunto esodo, una parola antichissima, parola in principio biblica, recentemente rinnovata in ambito di riforma pensionistica, tanto che la sua paternità, in questo caso si potrebbe dire la sua maternità, potrebbe essere attribuita al ministro Fornero, anzi a Fornero. Naturalmente non si tratta di una maternità in senso assoluto, perché il termine si trova attestato già nel 1992 in un numero della Gazzetta Ufficiale, siamo nell'aprile di quell'anno, però la parola, come accade spesso con i fenomeni carsici, è rimasta silente per tanto tempo, fino a tornare alla ribalta a causa dell'alto uso che ne è stato fatto, in primis da parte di un esponente del governo che ne ha fatto un fulcro nelle sue comunicazioni relative all'operato da lei diretto. Ecco, tra l'altro appunto la parola è esodati. Esattamente, la parola esodati, adesso ci arrivo, perché benché appunto il ministro Fornero o la ministra Fornero non sia chi l'ha tecnicamente coniata, sicuramente è l'estensore, anzi l'estenditrice, dal momento che prima degli ultimi mesi e prima che ricorresse tante e tante volte nei suoi interventi e nei commenti ai suoi interventi prodotti dalla stampa, il termine non aveva la rilevanza che ha oggi. Era familiare ai praticanti o a chi si è formato nell'alveo della cultura ebraica, della cultura cattolica, per via del libro di Esodo, il secondo libro dell'Antico Testamento. Per secoli, dunque, il termine è rinviato quasi esclusivamente alla fuoriuscita degli ebrei dall'Egitto. Il termine è stato messo a lemma, quindi è stato incluso nel dizionario di Wikipedia, che proprio facendo riferimento agli ebrei che escono dall'Egitto, afferma, quasi mutatis mutandis, che gli esodati a questo punto sarebbero gli ebrei e l'azienda sarebbe l'Egitto. Cioè, questo proprio per far capire come comunque nell'immaginario collettivo l'idea dell'esodo sia diventata inscindibile appunto dal riferimento all'episodio biblico. Per quanto riguarda l'etimo, così poi arriviamo in maniera naturale al nuovo esodo, quello degli esodati. Per quanto riguarda l'etimo, si tratta di una voce greca, da un prefisso ex che significa da, e da un sostantivo odos che significa strada. La parola è stata ripresa dal latino cristiano per indicare per l'appunto l'egressus, quindi l'uscita del popolo da Israele. Nel corso del Novecento la parola è stata utilizzata molto, però anche in contesti estranei a quello originario, ad esempio per indicare la fuoriuscita dei capitali e anche la fuoriuscita di fumo, di aria, di oro. Benché non dovesse essere necessariamente così, in latino come poi in italiano, il termine quindi si consolida in unione al riferimento ideale ad una massa, proprio per via di questa inscindibilità dal ricordo dell'esodo per antonomasia. Gli usi moderni recuperano e continuano invece il significato letterale di uscita, perché altrimenti non ci spiegheremo per quale ragione esodo di capitali possa essere compreso, se il riferimento alla massa fosse di obbligo. L'idea di migrazione, di moltitudine, di una massa che è andata via via crescendo, è però purtroppo tornata ad imporsi con il participio sostantivato di cui parlavamo prima, esodati, che a me personalmente non piace, non mi piace per niente, perché mi sembra celare un'attitudine, una volontà eufemistica o eufemistizzante. In altre parole, rende meno accessibile l'informazione fondamentale che si cela dietro la parola, ovvero il riferimento a chi si trova già o che si troverà nella condizione di essere senza stipendio. Quindi non so se queste fossero le intenzioni del legislatore, credo semplicemente che si tratti di un burocratismo, però visto che è un burocratismo che proietta la propria essenza su una realtà che è fatta di persone, devo dire che a me pare un po' troppo eufemistico. Però lasciata da parte la considerazione personale, a livello di curiosità voglio segnalare l'uso di esodo anche, questo lo trovo un po' buffo, anche in cartelli contenenti indicazioni da seguire in caso di pericolo. Mi è capitato in un ufficio di igiene di vedere in caso di esodo lasciare le proprie cose, andare verso la porta allarmata, un altro termine di cui dovremmo parlare. Assolutamente sì, la porta allarmata, perché si spaventa da sola, no? Certo, quando... infatti. E quindi in caso di esodo fare questo, non fare quello e così via. Scusami, una parentesi, come possiamo chiamarla porta collegata appunto all'impianto antifurto, quindi all'allarme o antincendio in questo caso? La porta con allarme, ecco, sicuramente se vogliamo mantenere il riferimento ad allarme, meglio dire con allarme oppure sorvegliata, anche se però in realtà non è sorvegliata, ho detto una cosa sbagliata, perché la porta... guarda, ci devo pensare, ma sicuramente non allarmata, è brutto e poi è scorretto in partenza. Certo, una parola che si spaventa da sola. Sì, torniamo a esodo, poi c'è anche il controesodo, no? Ecco, naturalmente, quindi lasciata da parte la comunicazione pubblica di tanti uffici, arriviamo a quello che hai appena detto, quindi la digressione è partita, cioè in realtà è già il discorso sui tormentoni che era partito dal fatto... dal riferimento al caldo, alle autostrade, sì, alla benzina, all'asfalto, e quindi l'esodo, esiste un solo esodo nella mente di coloro che si cibano del CIS viaggiare informati e dei notiziari sul traffico e di tele, radio, giornali di ogni tipo, quell'esodo che ha come retro della medaglia il controesodo. Quindi non si tratta degli ebrei che tornano in Egitto, controesodo, ma del ritorno nei luoghi abituali di dimora di milioni di persone che ancor prima di riprendere le proprie attività sono assaliti dallo stress da controesodo e da rientro dalle vacanze. Anzi, recentemente si è parlato di una vera e propria sindrome di rientro dalle vacanze, una sindrome da rientro. Il termine è stato coniato per distinguere questi sintomi che ora elencherò da quelli della depressione stagionale. E mi sono divertita ad andare a cercare in giro i sintomi appunto della sindrome da rientro e ho segnato solo i principali, perché poi altrimenti avremmo dovuto fare una puntata solo sui sintomi della sindrome da rientro. Essere e benessere, devo dire a Nicoletta Carbone appunto, e cercare di farlo fare a lei, no? Nel senso che è una cosa che riguarda seriamente, prendiamo gli sintomi veri e propri. Cosa sono? Nervosismo, agitazione, affaticamento, preoccupazione, svogliatezza, sonno disturbato, ipersudorazione, tachicardia, forte stanchezza, facile irritabilità, problemi di alimentazione, emicrania, ansia diffusa, stress. Quindi le hai tutte in poche parole, ti viene qualunque cosa. Esattamente. Quindi sarebbe come dire, meglio non partire perché poi c'è il controesodo da affrontare. Fammi fare una battuta, alla fine delle vacanze, ci si può fare una malattia, perché con questa definizione ipertrofica di stress da rientro non si può non pensare ad una malattia. Una malattia curabile con una nuova vacanza che nella maggior parte dei casi, o almeno nei casi di coloro che non possono permettersi di disporre delle proprie vacanze quando vogliono, porterà ad altro stress, perché poiché tutti partiamo più o meno nelle stesse epoche, ci sarà un altro stress da partenza a cui farà seguito, quindi uno stress da esodo a cui farà seguito un nuovo stress da controesodo, e così via, gli anni passano. E tutto questo è un tormentone alla fine, ecco, diciamolo, perché sono le cose che poi leggiamo costantemente ogni volta sui giornali, ogni estate. Non c'è estate che tenga senza appunto queste parole, no? Alla fine. Esattamente. Mm-hmm. Ci sembra quasi che non sia neanche più la stagione. Se non leggiamo Esodo da qualche parte, sembra che l'estate non sia iniziata. Quello è un po' il senso. Ma ormai diciamo che ci sono più che dei luoghi comuni, ma ci sono dei veri e propri motivi portanti comuni, tipici del linguaggio giornalistico. Arriva la primavera, l'allergia. Arriva l'estate, la pelle, l'abbronzatura, l'esodo, l'aumento della benzina, il costo del pedaggio delle autostrade, la fila, finisce l'estate, lo stress da rientro, la dieta, si avvicina Natale, perché a quel punto, come dice mia nonna, passato Ferragosto arriva Natale, a quel punto inizia il panettone, il torrone. Ma adesso per cambiare le regole abbiamo inserito anche Halloween, per cui c'è qualcos'altro da aggiungere tra appunto il Ferragosto e il Natale. Francesco Dragotto, grazie davvero, e cerchiamo di viverci questo controesodo in modo sereno. E a proposito di questo, gli aggiornamenti sul traffico. Grazie, ciao, ciao Francesca. Ciao, arrivederci a tutti. Il riposo del guerriero. Versione estiva del riposo del guerriero, ma non può mancare anche in questa edizione il nostro gastronauta. Il gastronauta. Ciao Davide Polini, buona domenica, bentornato, diciamo così, alla routine da un certo punto di vista, no? Settembre ci riporta tutti a casa. Beh, io devo ancora fare le vacanze comunque, però, mi sono riposato, in generale. Mi sono riposato poco. Ma tutti, te lo diranno tutti, ma tu ti riposi sempre, certo, andando in giro. Certo, nessuno mette sul conto i chilometri che faccio io domanda, all'anno. Ma che mestiere fai che non fai che bere e mangiare, no? Te lo diranno so, ma, tutti. Questo lo dicono tutti, tu sei fortunato. Posso dire una cosa, ogni volta che incontro un noto imprenditore che si chiama Diego Della Valle, mi dice: tu sei fortunato a fare quel mestiere. E io gli dico: vogliamo far cambio? Non lo so, secondo me va benissimo il tuo, sinceramente, ma questo è un altro discorso. Beh, quando diventa mestiere, però attenzione. Tutto cambia. Tutto cambia. Esatto. Io ho scritto un libro che è Il mestiere del gastronauta, e devo dire che alla fine di quel libro volevo fare una pagina, poi non l'ho fatta, per dire che quando diventa mestiere... È un impegno. È un impegno. Sì. È un impegno, lo devi fare tutti i giorni, quindi sì. Non puoi dire, beh, oggi faccio... Oggi faccio non ho fame, non ho sete, non voglio chiudo non tutto. Non voglio mangiare un gelato, oppure no. La cosa incredibile di questo mestiere, posso dirlo, è molte volte che quando ti siedi al ristorante, purtroppo il ristoratore, il cuoco o chi altro... E ti vuole far assaggiare delle cose. Io molte volte entro in un locale, ho voglia di mangiare due uova al tegamino. Impossibile, perché non posso ordinarle, perché mi dice: guarda che ti faccio assaggiare un piatto, poi mi dici, oppure mentre ti sei seduto ordini due piatti, te ne arrivano cinque. Questo mi manda in bestia, perché io vorrei mangiare delle volte delle cose più semplici. Beh, come dicevo, due uova al tegamino magari con un po' di bottarga sopra, che mi piace da morire, oppure un piatto di spaghetti pomodoro e basilico, oppure ancora non so, una cotoletta, certo. Senza però, diciamo, dovresti fare come Ego, no? Che ha detto sorprendimi, e voleva un piatto solo che fosse quello che lui in Ratatouille. Ma io mi ricordo, e devo dire che il piatto che mi sorprende di più, lo ripeto, quindi se c'è qualcuno che mi vuole invitare, sono gli spaghetti al pomodoro. Spaghetti pomodoro e basilico, con una cottura particolare, però devono essere... Com'è quelli. La cottura particolare, scusami? È una cottura che forse è leggermente prima del dente. Mm. Anche perché c'è un amico grande, grande cuoco, sì, che è Gennaro Esposito, che in proposito fa ogni tanto dei panel sulla cottura della pasta, e lui ci ha inventato uno strumentino che è fatto da due vetrini per vedere se dentro la cottura è perfetta, perché dentro non deve più apparire quella striscia di bianco dentro, sì, lo spaghetto. Ebbene, confrontandomi con lui, con la sua cottura perfetta, che lui dice quella al dente quando il bianco è scomparso, io invece sono già, e per me è passata la cottura. Sì, tu sei un po' prima. Sono un po' prima. Ecco, ma è anche vero che il bianco scompare anche quando è scotta, è la pasta. Ah, per carità, io la pasta scotta... No, No, no, guarda che se, se tu sai cogliere l'attimo, sì, se cogliere l'attimo e vai con questo aggeggino per controllare. Io lo so cogliere, ma devo fare due etti di pasta in più perché mano a mano che assaggio finisce la grammatura, scusami. No, la pasta scotta no, neppure il riso scotto. Assolutamente. Invece ci sono molti piatti che mi piacciono rifatti. Sì. Il minestrone. Quello lo adoro. A me è risotto saltato. Il riso al salto, ecco, se tu mi dici mi devi sorprendere, non sono solo gli spaghetti al pomodoro, ma il riso al salto, che sembra facile. No, sembra no, io, io non ci riesco a farlo. Allora ti insegno la ricetta. Me l'hanno insegnata, ma non mi si spezza e mi arrabbio. Mangio lo stesso. Ma la ricetta più semplice è questa. È il risotto rifatto del giorno dopo. Sì, cioè tu devi fare il riso giallo il giorno prima. E poi devi avere una padella particolare. Farla con lanciare. E poi a me piace burro. Quando è leggermente abbrustolito. E deve essere tutto così, con la croccantino, se no tutto, non funziona. Tutto. Ve lo consigliamo se non avete mai assaggiato. Adesso devo dire che hanno ripreso molti ristoranti a Milano intorno a farlo, perché è un vecchio piatto. Bene, allora Lombardia. Io per una volta, però lo faccio spesso, mi permetto di dare un'indicazione. Sì. Non so se ha riaperto perché siamo a settembre, non lo so, ma a Milano c'è un posto che si chiama L'Altra Isola, di un vecchio signore della cucina milanese, anche se lui è emiliano di origine. All'Altra Isola si fa il miglior riso al salto e forse anche il miglior risotto alla milanese. Diciamo che il patron è milanese d'adozione, originario della provincia di Parma, però vi dico che in cucina c'è un cuoco cinese, sì, il quale ha imparato tutto perfettamente da questo grande maestro e fa il miglior riso al salto di Milano. Ecco, quindi torniamo, mi hai fatto venire una voglia adesso veramente di mangiare. Non devo fare il programma con te perché ingrasso solo ad ascoltare. Beh, possiamo andarlo a mangiare. Allora andiamo avanti. Come riapriamo la stagione del ritorno a casa? Con la pizza, per esempio? Sì, perché magari a molti, cioè, il portafoglio è svuotato. Anche se ci sono delle pizzerie ormai, insomma, che te lo svuotano automaticamente. Il conticino sì. Non è più come un tempo. Ma sai, c'è questa grande tendenza, è discutibile o meno, secondo i punti di vista, ora sta imperversando la pizza gourmet. La e pizza cos'è? Gourmet che non è fatta dagli chef, è fatta da pizzaioli molto particolari, i quali, diciamo, hanno lievitazioni straordinarie, sì. C'è chi arriva a 48 ore, ma hanno anche degli accostamenti che non sono più quelli tradizionali. Praticamente usano, come posso dire, molti ingredienti da cui fanno dei piatti e fanno la pizza. Quindi diciamo che c'è, come posso dire, un filone molto importante che sta crescendo di questa linea di pizzaioli che continuano a chiamarsi pizzaioli, però io devo dire che ormai queste pizze sono più piatti, pietanze che pizze. Però è una linea che sta prendendo, mentre resiste molto forte appunto la linea tradizionale, se vogliamo la linea napoletana. E c'è un altro fenomeno importante che è quello della pizza romana al taglio, che negli ultimi anni, diciamo, ha avuto, per così dire, il sigillo di pizza di grande qualità. Un giorno per anni abbiamo sempre visto la pizza al taglio come un qualcosa, non dico di serie B, però un qualcosa veloce. È la pizza veloce che prendi in piedi, magari così. Sì. Si può mangiare sempre veloce in piedi anche quella, però dietro c'è un lavoro non indifferente. Quindi ci sono ormai dei guru sia della pizza gourmet che della pizza di scuola romana, molto importanti, che sono nati in questo paese, insomma, che sono diffusi in questo paese. La tua opinione sulla l'aggiunta della mozzarella di bufala sulla margherita? Ma dunque, l'aggiunta della mozzarella di bufala, la scuola di pensiero, che sappiamo fa molta acqua, per cui la scuola di pensiero dice che bisogna asciugarla al forno prima, quindi se asciugata al forno prima questo non succede, e sicuramente i pizzaioli napoletani lo sanno benissimo, seguono questo criterio sì. Come qua, molto si discute sul pomodoro San Marzano se è, diciamo, il migliore in assoluto, se non lo è. San Marzano è quasi desparecido questo pomodoro, però insomma qualcuno continua a mettere pomodoro tipo San Marzano. E devo dire appunto che c'è questo disciplinare, se vogliamo, di STC della pizza napoletana verace, che tra l'altro ha del seguito anche in Lombardia, perché ci sono due pizzerie in Lombardia che hanno fuori questo marchio ben presente, pizzeria verace napoletana, appunto, che appartiene a questo gruppo napoletano che ha fatto questo disciplinare. Quindi esiste una scuola di pensiero prettamente tradizionale, esiste una scuola di pensiero ormai gourmet, mentre diciamo che le elaborazioni fantasiose stanno per così dire, sparendo, oppure sono meno intense in ristorante, stanno venendo fuori nelle pizzerie. Pizze che costano, perché costano 16, 18, 20 euro, quindi non molto. È che, non è che, perché anche tu mangi un piatto completo, insomma, sì. Sono piatti completi. Certo, comunque ci sono posti di villeggiatura dove ancora la pizza con Wurstern e patatine fritte funziona e viene richiesta, ecco, non so come si faccia a mangiare. Beh, io mi rifiuto di mangiarla. Lo so, però li vedi, ce le fanno e le richiedono anche. Beh, io vedo delle volte delle combinazioni di pizza che veramente sono incredibili, insomma, come il calzone alla Nutella, insomma, mi lascia molto perplesso, però vedo che lo mangiano. Io non ho niente contro la Nutella e quindi non è che bandisco questa cosa, però cioè, sono altre cose. Io dico, la pizza secondo me è pomodoro, mozzarella, che sia di bufala o e vaccina, foglia di basilico, ma anche io arrivo anche a mettergli l'acciuga. Però ecco, secondo me pizza è quella. Poi le altre sono elaborazione della pizza. Sì, è una base dove sopra puoi mettere qualunque cosa a questo punto, quindi va bene. A questo punto ci mettono il foie gras. A proposito, bene, vedo queste pizze gourmet, no? Credono di aver scoperto chissà che cosa. Vorrei ricordare che negli anni '80 negli Stati Uniti c'è stato un fenomeno che si chiama Spago, ed è di uno chef austriaco che è passato anche dall'Italia e poi è andato negli Stati Uniti, ha avuto una fortuna inenarrabile, perché credo che sia il ristoratore che più incassa, che più fa fatturato in negli Stati Uniti con Spago e tante altre ristoranti, che tra l'altro è un amico, si chiama Wolfgang Puck. Ebbene, lui, la sua fortuna è avvenuta che a Hollywood ha aperto questa pizzeria che esiste ancora, che si chiama Spago, dove le pizze erano al salmone, al tartufo, alle ostriche. Queste erano le pizze che lui lanciò negli anni '80 e che ebbero un successo incredibile. È diventato famoso in tutta America, tant'è vero che è uno dei personaggi televisivi più noti. Ebbene, praticamente si poteva chiamare pizza gourmet, perché lui si è inventato questa cosa a Hollywood, in un posto particolare che magari Hollywood è abituato alle bizzarrie anche di cucina. Però devo dire che lui ebbe un successo incredibile, quindi diciamo che le pizze gourmet che vedo, sì, sono interessanti, però non hanno scoperto niente di nuovo. No, io credo che gli preferire comunque un piatto gourmet a una pizza gourmet. Grazie Davide Paolini, ci sentiamo domenica prossima. Il riposo del guerriero. Siamo arrivati al momento dedicato al turismo, ai nostri viaggi. Restiamo in Italia e, visti i tempi, cerchiamo di restare in Italia spendendo il meno possibile, magari facendo anche delle cose gratis. Isa Grassano, infatti, ha pubblicato un libro, 101 cose divertenti, insolite e curiose da fare gratis in Italia almeno una volta nella vita. Ciao Isa, buona domenica. Buona domenica a voi, ciao. Ecco, non gratis perché ce le pagano gli altri, ma gratis perché si possono fare e basta. Vero. Allora, citiamo qualcuna di queste 101 cose da fare. Beh, dopo il mare, insomma, dopo l'estate, secondo me è anche un po' tempo di ricominciare ad andare nei musei, quindi ci sono tantissimi musei che in determinate giornate hanno l'ingresso gratuito. Mi viene in mente, non so, il Museo del Novecento a Milano, che solo di venerdì pomeriggio ha l'ingresso free, i Musei Vaticani a Roma l'ultima domenica del mese, oppure il Museo Morandi a Bologna solo ogni mercoledì. E poi invece ci sono tantissimi musei dove non si paga mai, quindi può essere una buona occasione per una gita fuori porta. Ce ne sono veramente sparsi in tutta Italia di curiosissimi. Per esempio il Museo dei Cookie a Cesuna, in provincia di Vicenza, è particolarissimo perché questi cookie hanno delle forme strane, tipo il gallo, la gallina, e si dice che portino fortuna. Il loro suono pare che appunto abbia questo portare, insomma, fortuna. Oppure se gli appassionati di musica possono andare al Museo del Disco d'Epoca a Soliano Rubicone, in provincia di Forlì Cesena, e ci sono un sacco di dal fonografo dei primi anni del Novecento, tutti i dischi in vinile, oppure ci sono anche le statuette in terracotta che rappresentano i personaggi più famosi nel campo musicale, quindi dalla Callas oppure Pavarotti. E se invece siete tra quelli che amano attaccare bottoni, si può andare a Soliano a Sant'Arcangelo di Romagna, dove c'è il Museo del Bottone. E certo, non si imparerà ad essere più spigliati e più seduttivi, però si potranno scoprire ben 8.000 pezzi di bottoni che hanno impreziosito giacche anche di personaggi famosi come la regina d'Inghilterra o politici come Craxi. Insomma, quindi può essere un'idea trascorrere una domenica pomeriggio oppure un fine settimana andando un po' in giro per musei. Poi cosa invece possiamo fare magari per rimanere all'aria aperta? Per rimanere all'aria aperta ci sono dei vari degli eventi che soprattutto in settembre regalano un po' delle giornate fuori porta. Per esempio c'è il Festival Toccati a Verona, è un festival molto popolare, va in scena dal 21 settembre, sono 3-4 giorni per provare a rifare i giochi di quando eravamo ragazzi, quindi non so, la morra, il tiro alla fune, tutti quei giochi che si facevano all'aria aperta, e per 3 giorni la città di Romeo e Giulietta diventa un palcoscenico di tutti oltre 50 giochi che si potranno vedere e provare, soprattutto provare, certo. Sì. Oppure a Matera, se ci vogliamo spostare al sud, sì. C'è il Women Fiction Festival dal 26 settembre al 30 settembre, dove si viene a contatto a tu per tu con tutte le scrittrici, autrici che rispettano un po' il tema. Quest'anno il tema è letteratura e il cibo, quindi un omaggio un po' al gusto di leggere. Oppure sempre un posto molto carino, io lo definisco museo all'aria aperta perché non chiude mai, è Dozza, un borgo medievale tra Imola e Bologna, ed è particolare perché tutte le porte, le pareti delle case sono state dipinte negli anni, e quindi ti aggiri in queste strade acciottolate e vedi ovunque, vedi dei capolavori di pittura contemporanea. Bene, ci andremo, un luogo che tra l'altro non conoscevo affatto. Isa Grassano ha scritto 101 cose divertenti, insolite e curiose da fare gratis in Italia almeno una volta nella vita. Grazie Isa, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica, presto. Allora, spesso quando si parla d'estate si parla di mare e magari anche di lago, la montagna rimane sempre un po' lì, eppure in montagna ci sono luoghi straordinari da visitare e la montagna ha molte storie da raccontare. Stefano Ardito, ciao, buona domenica. Buona domenica a voi. Infatti Stefano Ardito ha pubblicato 101 storie di montagna che non ti hanno mai raccontato. Allora cominciamo a raccontarne almeno una noi, va? Certamente sì. Ma diciamo che appunto è vero, la montagna è un grande... Questa sarebbe la 102esima storia, sì. Probabilmente. La montagna è un luogo dove in Italia vanno centinaia di migliaia di persone, ma è un luogo che è sempre stato un po' più defilato rispetto ai riflettori, no? Rispetto alle cronache del mare. Anche perché forse la montagna lo chiede, no? Un po' questo. Infatti, chi va in montagna di solito chiede un po' di silenzio. Cosa, non si lamenta. Sì, giusto. Certamente sì. E allora i misteri sono tanti però, le storie che sono legate alla montagna sono veramente tanti. Scegline uno. Un luogo che io amo molto per molti motivi, che è un luogo di natura bellissimo, è il lago di Pilato, sui Monti Sibillini, al confine tra l'Umbria e le Marche, nell'Appennino. Ed è un posto che è stato maledetto per secoli, si pensava a un luogo di stregoni, di sacrifici, di magia nera, invece è semplicemente un lago molto bello nel cuore di un massiccio magnifico e di uno dei più bei parchi nazionali italiani. Ed è appunto una meta escursionistica, d'altronde questo è un libro che racconta delle storie, non descrive i sentieri per arrivarci. Però è un luogo che merita una visita e non è solo una visita così, solo una camminata. Poi quando uno arriva lì ha delle cose che è bene sapere e che è interessante vedere. Dei posti da fotografare nel vero senso della parola. Certamente sì, e poi però esistono anche dei luoghi che non richiedono di andarci camminando. Molti luoghi a cui fa riferimento questo libro, molte storie raccontate dal mio libro, sono storie che si possono andare a vedere, a leggere anche in automobile. Per esempio i murales di Cibiana, che è un paesino molto carino, a mezz'ora di macchina da Cortina, ma è esattamente l'opposto di Cortina, nel senso che è un vecchio paese di montagna che è rimasto com'era. Ed è stato uno dei primissimi paesi d'Italia a essere decorato di murales da parte di pittori arrivati da tutta Europa e poi da tutto il mondo. Ed è una meta interessante, alternativa, anche se la parola non mi entusiasma, a due passi appunto dal paese di montagna, dalla meta turistica più nota delle montagne italiane. Certo, c'è una di queste storie che ti ha particolarmente emozionato? Guarda, ce ne sono molte, perché in realtà questo libro, insomma, io sono 30 anni che scrivo, che giro documentari di natura e molto spesso di montagna, e questo libro è abbastanza un'autobiografia. Quindi raccoglie ovviamente tutto ciò che ti ha emozionato in generale. Sì, ma non era nata in questo modo, poi via via mi sono accorto che in realtà c'era andato a mettere dentro ricordi di ogni tipo. Beh, una cosa che a me personalmente ha emozionato tantissimo è la storia del gorilla di montagna, che io sono andato a vedere in Congo, che all'epoca si chiamava ancora Zaire, e che vive appunto in queste montagne straminacciate dove si abbattono tutte le calamità del mondo a confine tra Ruanda, Uganda e Congo. E voglio dire, andare a camminare in questa foresta torrida e trovarsi all'improvviso di fronte il silverback, il grande maschio a schiena d'argento di gorilla, è un'emozione straordinaria, perché ti senti assolutamente alla sua mercé. È un animale gigantesco, fortissimo, che ti sopporta, e tu ti rendi conto di quanto è bella e forte e impressionante la natura. Ecco, questo è straordinario, no? Il fatto di averlo lì e, tra virgolette, non succede niente, no? Tu pensi che può succedere chissà che cosa, invece è lì ed è davvero, immagino, davvero l'emozione, e in questo ti invidio. Stefano Ardito, 101 storie di montagna che non ti hanno mai raccontato, però le potrete leggere e quindi magari anche vivere. Grazie ancora Stefano, buona domenica. Grazie a voi. Dalla montagna passiamo invece a una città che moltissimi conoscono, che magari avete anche visitato, ma che come sempre ha molto da farci scoprire. Giacomo Besenghi ha scritto 101 cose da fare a Londra almeno una volta nella vita. La prima che ha fatto Giacomo a Londra è quella di andarci a vivere. Ciao Giacomo, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica, grazie. Allora, tu hai deciso di andare a vivere a Londra, hai scoperto tante cose da fare almeno una volta nella vita, 101 qui le hai appunto citate, e raccontacene qualcuna di queste. Ne ho scoperto davvero tantissime, è stato davvero difficile scegliere il fior da fiore, cioè trovarne 101, la difficoltà è stata proprio scoprire. Immagino. Senti Giacomo, in una puntata dedicata a New York, la cosa che si diceva è che la prima cosa da fare a New York è quella di fare davvero i turisti, cioè guardare le cose che ci si aspetta di trovare a New York, perché l'iconografia cinematografica ci ha mostrato, che ha mostrato New York in tanti, tanti lati di New York, rappresenta esattamente quello che New York è, quindi è giusto fare i turisti nel vero senso della parola, le classiche cose. Tu consigli questo anche per Londra? Io credo che fare il turista sia la cosa più rilassante quando uno va in vacanza, cioè sì. Non è necessariamente è fondamentale che uno si possa divertire e fare le cose e vedere le cose che si trova davanti senza dover necessariamente andarsene a scovare. Poi sì. Chiaramente ci sono appunto le persone, ci sono le persone che scrivono i libri, che magari ti consigliano di andare a vedere qualche posto in particolare, ma le cose tra virgolette turistiche sono le prime cose che uno deve andare a guardare. Cioè io parto nel libro, parto con Trafalgar Square, perché comunque è il centro non solo turistico di Londra, ma è proprio il centro della vita di Londra. Per esempio, ci sono stati da poco gli europei, abbiamo battuto l'Italia, ha battuto l'Inghilterra, ed è lì che gli italiani, la sera in cui l'Italia ha battuto l'Inghilterra, me compreso, si sono riuniti per festeggiare un centro di aggregazione. Quindi c'è, cioè, questa piazza che però ha attorno uno dei più bei musei del mondo, cioè, circondata da bellezze architettoniche particolari, è comunque il centro che turistico e il centro geografico di Londra e va necessariamente visto. Comunque ci si passa. Ecco, poi perfettamente d'accordo. Ecco, tra le tante cose appunto da fare una volta nella vita, e magari invece un po' fuori dal comune, che cosa consigli? Ma fuori dal comune io ti posso consigliare le cose che per cui io mi sono particolarmente divertito nella mia ricerca per il libro e quando poi le ho proprio fatte. Cioè, per esempio, sono andato a vedere Harrow on the Hill, la scuola, una scuola vittoriana, ottocentesca, in cui è stato girato Harry Potter, e anche qui torniamo all'iconografia cinematografica. Sì. Sono state girate alcune scene del film, dei vari film di Harry Potter, ed è un'esperienza bellissima in cui ci si trova appunto circondati dagli studenti vestiti in divisa, sembra di essere ricatapultati nel passato. Ed è estremamente suggestivo trovarsi lì appunto a vedere certo, perché ti rendi conto che esiste davvero. Senti, esatto, sì. Giacomo, ma si può visitare solo all'esterno o si può anche entrare a vedere? Assolutamente entrare, c'è la possibilità di fare delle visite guidate, e vieni proprio portato nelle sale, in cui nelle biblioteche antiche della scuola, in cui è stato, che poi rappresentavano nel film Harry Potter, per esempio, le aule della scuola di magia. Certo, beh, insomma, quindi è anche grazie al film, è anche un modo per così far conoscere i luoghi. È bella questa cosa, io la farei sicuramente. Però se non vado a Londra, seguirò questo consiglio. Ce ne sono molti altri. 101 cose da fare a Londra, almeno una volta nella vita. Grazie, Giacomo Besenghi. Buona domenica ancora. Buona domenica. Il riposo del guerriero. Quasi in conclusione del riposo del guerriero in versione estiva, sempre con Antonio Capitani. Ciao, bentornato. Buongiorno, grazie. Antonio, ciao, buona grazie. Domenica. E vediamo un po', visto che ormai siamo a settembre, di capire se ci sarà una ripresa, come sicuramente ci sarà, e in che modo per il 12 segni dello zodiaco. Come no? A settembre dal mio paese si dice l'uva matura e il fico pende, ma noi sai, siamo toscani. Quindi va bene. Allora, com'è questa ripresa? Beh, fra un mese, praticamente un mese e tre giorni, quindi il 5 di ottobre esattamente, ci sarà un evento astronomico molto importante, che è lo spostamento di Saturno dal segno della bilancia, dopo due anni rotti che transitava in questo segno, al segno dello scorpione. E cambia finalmente e cambiano qualcosa, tante cose, sì. Per l'Ariete, ad esempio, che già in questo mese con Marte nello scorpione, potrebbe essere una ripresa caratterizzata da questioni finanziarie, soprattutto da gestire. L'Ariete che ha bisogno di finanziamenti, di mutui, o che intende investire, o che intende comunque dare un po' una virata anche alla, come potrei dire, al proprio tariffario, se è un libero professionista. Ebbene, questi sono mesi molto propizi per l'Ariete, per dare il via a questo nuovo corso degli eventi. Certo che Saturno chiede tempo, chiede pazienza, quindi, cari Ariete, non è che dall'oggi al domani tutto ciò che voi investirete o penserete di chiedere o penserete di fare arriverà nella vostra vita. Saturno dice pianino, calma, che le cose andranno bene. E anche perché con Giove, pianeta del denaro, a favore, tutto ciò che è movimento di denaro nella vita dell'Ariete, devo dire, è molto ben favorito. E tanti Ariete trovano il lavoro finalmente più stabile. Saturno esce dall'opposizione. Quindi abbiate fiducia da ottobre in poi. Sì. Toro. Ecco, per il Toro comincia un periodo di revisioni, di selezioni, di repulisti. Saturno è opposto. Saturno dai primi di ottobre, ma anche in settembre con Marte opposto, il Toro deve forse liberarsi di ciò che non dà più fiori e frutti, di ciò che non ha più senso. E è difficile per il Toro, perché il Toro è uno stanziale, un territoriale, però il Toro dovrà forse aprirsi a nuove evenienze di vita, dovrà buttar via appunto quello che non gli serve più, ciò che è obsoleto, e avventurarsi anche su nuovi sentieri, sempre con prudenza, ma forse ciò che ormai è diventato troppo vecchio per il Toro non va più bene. Bisogna cambiare. I gemelli, beh, hanno Giove nel segno, hanno Urano a favore, devo dire che il Gemelli può svoltare, può acchiappare la fortuna, può insomma dare una bella scrollata alla propria vita, devo dire, con grande successo professionale, soprattutto anche nel privato, però professionale in modo particolare. Giove porta la conoscenza giusta, l'aggancio giusto anche a chi cerca un lavoro, a chi lo vuole espandere, a chi vuole cambiare. Insomma, i Gemelli secondo me sono molto favoriti, ecco. Allora, quindi la ripresa per il Cancro, invece, che finalmente tira un sospiro di sollievo dopo due anni rotti di Saturno storto. Finalmente il Cancro riprende un po' in mano le redini del proprio destino. Saturno è il pianeta del destino, quindi finalmente il Cancro consolida, vede riconosciuti i propri meriti, il proprio lavoro, la propria autorevolezza, e il Cancro diventa grande, ancora più grande. Quindi tutta adulto, la fatica che voi Cancro avete fatto in questi anni finalmente viene ricompensata, ecco, sì, da ottobre in avanti. E ci sono tante posizioni anche contrattuali che da tempo determinato diventano a tempo indeterminato, quindi tanta sistemazione. È una bella iniezione di fiducia. Sì. Leone. Il leone che ha Giove a favore, quindi porta a casa tanti successi. Saturno è contrario, quindi è un po' come dire, la continuità di questi successi potrebbe lasciare un po' a desiderare. Quindi il Leone forse in questa ripresa autunnale dovrà battere il ferro finché è caldo, finché le cose durano, dopodiché può darsi che al Leone verrà richiesto di mollare gli ormeggi e di occuparsi di altre cose, tutto in un concatenarsi di esperienze a catena. Quindi non c'è forse tanta stabilità, però c'è Giove che comunque porta anche i quattrini. Vabbè, sai, la stabilità, devo dire che in questo periodo storico c'è molto, ce n'è molta poca. È meglio avere, ecco, qualcosa al quale aggrapparsi. Sì, certo. Certo, ma il leone che è una cosa fissa. No, il leone, appunto, è giusto, hai ragionissima. Quindi, secondo me, il leone è molto favorito da questo punto di vista, sì. E Vergine. Dopodiché arriva la Vergine, che beneficerà di questo transito di Saturno, che anche in questo caso consolida le posizioni della Vergine. La Vergine che diventa ancora più credibile, che diventa più affidabile, che diventa un po' un punto di riferimento solido anche nella struttura nella quale lavora, o che comunque fa delle gran belle figure in sede di colloquio, perché emerge tutta la serietà, tutto l'impegno che la Vergine può profondere nel proprio lavoro. Può darsi che Giove contrario, insomma, non renda il saldo bancario particolarmente pasciuto, però in questo momento la Vergine investa su se stesso, perché può, secondo me, ottenere risultati solidissimi e brillantissimi. Ecco, poi quando si parla di lavoro bisogna anche saper guardare avanti. Come ovviamente. No, certo, in prospettiva, come vuole Saturno, certo. Bilancia. La Bilancia, che finalmente anche qui proprio accende una carrettata di ceri a Santa Ethel, perché due anni e mezzo di Saturno in casa la Vergine, la Bilancia non ne poteva più, aveva proprio gli zebedei chiodati ormai. Non dico che tutto sarà rose e fiori dall'oggi al domani, cari Bilancia, però sicuramente andrete a una velocità un po' più spedita. Giove vi porta anche il successo da acchiappare, gustare, spolpare e dal quale guadagnare anche dei bei quattrini, e quindi pian piano risalite la china, devo dire, in maniera molto evidente, molto palese. Scorpione. Lo Scorpione ospita Saturno. Vedi, lo Scorpione a Saturno gli dà quasi del tu, perché sono comunque valori zodiacali e planetari che, se non sono affini, poco ci manca, insomma. Quindi non credo che questo Saturno porterà allo Scorpione particolari rogne. Certo che lo Scorpione dovrà investire in un po' di ottimismo, perché Saturno sappiamo che abbatte un po' l'umore, però tutto ciò che nasce durante il transito di Saturno è destinato spesso a durare nel tempo, o comunque a lasciare un'impronta solida. E visto che questo Scorpione, anche Plutone dalla propria parte, che è il pianeta delle ambizioni che si realizzano, chi cerca lavoro lo può trovare anche in via abbastanza definitiva. Ecco, posso dire una cosa? Siccome gli Scorpioni spesso sono abituati ad andare un po' troppo a fondo delle questioni, sì, e quindi un po' questionare, magari in questo periodo è meglio questionare un po' meno prendere quello che c'è, perché poi l'evoluzione potrebbe essere molto positiva. Come no, certo, diciamo solo che, per esempio, a settembre, questo settembre appena cominciato, Marte nel segno, cari Scorpione, non aggredite, non partite di pungiglione, non fate affette chi non dovesse pensarla come voi, o insomma chi dovesse stressarvi. Ecco. Prendetelo un pochino più alla leggera, si può dire. Ecco. Sagittario. Come farebbe un Sagittario, forse? Come farebbe forse un Sagittario, che però è un tantino giù di penne questo Sagittario, perché Giove continuerà ad essere opposto. Ora, se da una parte Giove opposto può favorire la stipula di contratti, l'allargamento dei rapporti interpersonali, quindi portare anche le conoscenze proficue, dall'altra insomma rende questo umore un po' altalenante. Forse gli antichi splendori dell'ottimismo del Sagittario per il momento sono un po' sedati. Questo non vuol dire che il Sagittario va incontro a un periodo di sfighe, tutt'altro, perché parlavamo anche qualche settimana fa di Urano, che è il pianeta delle svolte, che è molto favorevole al Sagittario, e quindi ci sono probabilmente opportunità che nascono da un momento all'altro, che vanno acchiappate al volo, quei treni che passano per la stazione una volta cambiamenti soltanto, veri e propri, ma è vantaggiosi, ma molto vantaggiosi, poi da Urano, che è proprio il pianeta che simboleggia il lavoro. Quindi se i guadagni saranno così, però il prestigio, la fama, le opportunità di realizzazione sono arriveranno enormi. Capricorno. Il Capricorno, che trova in Saturno un alleato validissimo, trova lo sponsor giusto, l'amico giusto, l'entratura giusta, la clientela che viene a fidelizzarsi, quindi che lo sceglie rispetto alla concorrenza. Io devo dire che il Capricorno va incontro a un periodo di stabilizzazioni, di conforti anche dal punto di vista economico, che ultimamente erano un po', insomma, avevano latitato. Ecco. La ripresa per l'Acquario. Ottima. Devo dire che Giove è in rapporto particolarmente stimolante. L'Acquario che tira fuori la creatività, che tira fuori tutto il proprio ingegno, l'inventiva, il geniaccio dello zodiaco, l'Acquario. Certo, Saturno è contrario, quindi ci possono possono essere degli scontri con chi detiene l'autorità, il potere. Non mettetevi in urto con i capi, cari Acquario. Non potete essere sempre voi i dittatori, quelli che vogliono decidere le sorti, le procedure anche del posto di lavoro in cui operate. Perché essere più diplomatici, tirare fuori quella bella faccia di glutei che mi caratterizza, secondo me vi porterà dei gran bei vantaggi. Anche qui, un po' come dicevamo per il Leone, a volte la continuità delle cose lascerà un po' a desiderare, però finché le cose dureranno saranno molto redditizie anche dal punto di vista del curriculum. Quindi l'Acquario, secondo me, trova anche lavoro se in questo momento non ce l'ha. I Pesci. Beh, hanno Saturno in trigono, vedremo tanti pesci un po' meno sentimental mielosi e più panzer, più carri armati, più grintosi, più perseveranti, soprattutto come vuole Saturno, più autorevoli, più lucidi, più razionali. Quindi, e devo dire anche alle prese con una serie di opportunità vantaggiose, importanti e brillanti che possono dare lustro proprio al pesci. Il pesci che lavorava a contratto con anche qui a tempo determinato può invece trovarne uno a tempo indeterminato. I quattrini forse latitano un tantino, ma non è poi così vero. Giove sì, contrario, Plutone però, astro delle ricchezze, è favorevole. Quindi è un po' come dire che se escono dalla finestra poi entrano dalla porta i quattrini. Meno male, quindi siate fiduciosi. Grazie, grazie Antonio a voi. Capitani, il sito ve lo ricordo, capitanimiocapitani.com. Grazie a tutti voi come sempre, a Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. Ci sentiamo domenica prossima alle 10 con il riposo del guerriero. Buona settimana da Stefano Gallarini.